24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Cari ascoltatori, buongiorno, siamo qui, sono le 6:33 minuti, siamo in diretta fino alle 9, come al solito con 24 mattino, ci siete anche voi, se volete, con i vostri messaggi al 349-238-6666, c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino innamorato, Peter Bescapè. In regia e ridono poi sveleremo tutto, ma già qualcosa chi ci ha seguito su Twitter lo sa. C'è il consiglione, come sempre, il consiglio del presidente del consiglio. But please relax. Come al solito, e ci sono, li ringrazio anche per questo mercoledì di Levataccia, il direttore di Vanity Fair Luca Dini, buongiorno. Buongiorno. Che oggi vi ha fatto una copertina, guarda, cioè, vabbè, insomma, non anticipiamo, già libero, te lo dico direttore, ha fatto una pagina Vanity Shock, no, Vaticano Shock, ha messo Don Padre Georg Genschwein, un nome, un codice fiscale più o meno, chi è che ride? Paola Saluzzi, eccola qua, Paola Saluzzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, no, il codice fiscale mi ha fatto ridere, chiedo scusa. No, ma padre Georg, essere bello non è peccato, uno dei massimi collaboratori. Beh, certo, questo sì, però Luca Dini, poi ci arriviamo con calma, ma insomma, padre Georg, come mai questa scelta? Bella. È shock. avete dovuto chiedere l'autorizzazione al Vaticano, no? No, assolutamente no. No, diciamo, era curiosità di conoscere meglio un personaggio comunque, insomma, importante, molto di grande peso, di peso sempre crescente. No, ma certo, ma tra poco ci arriveremo, però l'ho detto prima di aprire il bar, perché volevo tenerlo lontano da Nicole Minetti, padre Gheorghe. Allora apriamo il nostro bar, possiamo farlo, il nostro bar condicio, eccolo qui. Il caffè volentieri a tutti quanti. Con Nicole Minetti che offre il caffè volentieri a tutti quanti. Allora, prima di tuffarci, ragazzi, oggi i giornali sulla questione della campagna elettorale è una disperazione. Ci sono dei giornali che aprono sulla corsa al Quirinale. Cosa c'è di più distante per gli italiani di pensare chi sarà a vincere la corsa al Quirinale? Se Prodi, Amato, Draghi, che ha già detto Draghi no. Questo è il livello del dibattito. Siamo a 40 giorni dalle elezioni. Ormai è entrato il piffero è entrato in tutte le case degli italiani, tanto che Fiorello nella sua straordinaria edicola Fiore la vede così. Piffero di Berlusconi, ci vuole l'IMU, ci per vuole tassarlo. Sai che paga tanto di IMU Berlusconi. Ragazzi, vabbè, qui facciamo veramente. Beh, ieri sera che l'ha visto Berlusconi stava da amico, era proprio. Chi ha visto? Io l'ho visto un po', eh? Vabbè, il piffero ci vuole l'IMU. Allora, io non voglio buttarvi subito sulla politica, ma voglio farvi fare una prima considerazione su un tema molto interessante e molto grave, cioè si prende spunto da un grave episodio di cronaca. Allora, Paola Saluzzi, sai che cosa ha detto il procuratore capo di Bergamo in un'intervista all'Eco di Bergamo riguardo al caso recente di una violenza sessuale, uno stupro terribile di un signore di 30 anni che ha stuprato una ragazza? Tra l'altro, dopo la violenza, questa ragazza ha scoperto pure di essere incinta del proprio ragazzo. E quest'uomo è stato subito messo agli arresti domiciliari. Il procuratore capo di Bergamo ha detto questo: le donne sono l'anello debole di una società in cui è parzialmente ancora inculcata l'assurda mentalità della femmina come oggetto del possesso. E poi ha detto la frase che ha scatenato le polemiche: lo dico con tutto il rammarico, ma sarebbe bene che di sera non uscissero da sole. Questo il procuratore capo Francesco Dettori di Bergamo. Allora, Paola Saluzzi e Luca Dini. Allora, Paola, qua colgo nella frase di quest'uomo il fatto di parlare con tutta l'amarezza del caso, e va bene. Questo certamente. Quindi non gli punto il dito addosso, perché se la situazione purtroppo è questa, la situazione è questa. Di contro, rispetto a questo tipo di affermazione, bisogna rivoltarsi e ribellarsi in tutti i modi possibili, perché che una società che si dice o presume di essere civile imponga alle donne, al di là delle mattane di un prete scriteriato che dice è colpa vostra, vabbè, ma quello l'abbiamo sì. È disperso, dove lo sa solo lui, purtroppo una situazione del genere non è più tollerabile, nel nostro come in altri paesi, non perché sia tollerabile in zone sottosviluppate, perché il problema è lo stesso, è identico, non è proprio più tollerabile che una donna debba essere aggredita, debba pagare il fatto il procuratore probabilmente, non so, vorrei coinvolgere su questo anche Luca, il direttore. Non voleva offendere nessuno, non voleva offendere nessuno, cioè prende atto del fatto che questa società purtroppo prevede anche queste cose esecrabili e vergognose, e però è andato a dire questa frase, cioè dice: a questo punto, visto che la situazione è questa, forse è il caso che le donne non escano la sera da sole. Ecco, direttore, è una considerazione, come dire, una constatazione purtroppo di una società che è andata così, oppure ha aggiunto qualcosa che magari non doveva aggiungere, una sorta di resa da parte del procuratore di Bergamo? Secondo me sì, nel senso, una frase così si può accettare solo come provocazione, ma non può essere una constatazione, non ci si può arrendere alla paura, significa che quella mentalità ha vinto, dichiarare che ha vinto, ed è assurdo perché in tutto il mondo si sono superate certe situazioni e dalla paura si è passati alla tranquillità, alla serenità, non è pensabile che in un paese come il nostro ci si rassegni a dire le donne non possono uscire da sole la sera. No, ma tra l'altro il procuratore ha aggiunto anche una frase che, se volete, ovviamente subito le hanno detto ma come, cioè sembra quasi colpevolizzare il fatto che una ragazza voglia uscire la sera per andare a divertirsi, e lui aggiunge: no, non voglio colpevolizzare la giovane che ha subito la violenza, per carità, ma a volte bisogna ragionare in termini realistici. Ecco, qui Paola qua ce l'ha aggiunta a dire, insomma, bisogna fare i conti con la realtà. Alessandro, argomento molto delicato e scivoloso. Non l'avevo ascoltato prima. È scivoloso, Alessandro, scusami, non voglio interromperti. Bisogna fare i conti con la realtà, bisogna fare i conti che c'è la guerra. La guerra dice: se bombardano a una certa ora ti devi cercare di nascondere. La guerra dice: se deve esserci l'oscuramento, perché sennò devi coprire i vetri delle finestre, perché sennò ti bombardano. Va bene, lo facciamo. Però ad una guerra, a qualsiasi guerra, si risponde cercando di farla finire. Piuttosto mi dico, e su questo ho letto le dichiarazioni della Severino e abbiamo seguito l'iter che c'è stato per questi domiciliari, questa gente, come dire, andrebbe trattata in termini un po' più forti, un po' più robusti e un po' più definitivi. Anche questa, effettivamente, non esiste, dei domiciliari. No, ma per carità, anche questa dei domiciliari, io non lo so. Il carcere non si augura a nessuno, il carcere è l'estrema razio, va bene. Il procuratore capo di Milano ieri ha ribadito: brutti liberati, ha fatto una circolare dicendo a tutti: date il carcere, mettete in carcere le persone solo se strettamente necessario, prevedete le pene alternative, le carceri scoppiano, lo sappiamo. Però Luca Dini, qui questo signore, certo incensurato, certo per il quale si è scongiurata la possibilità di reiterare il reato, cioè tutte le condizioni per cui si può evitare il carcere, ha violentato una ragazza, così almeno pare certo, è stato preso quasi subito ed è agli arresti domiciliari. Allora Luca Dini, che messaggio dobbiamo cogliere anche da questa cosa? Insomma, francamente mi sembra che sia quasi una... che si cerchi di esacerbare gli animi, poi qui c'è di mezzo anche il fatto che questo signore non è un italiano. Secondo me non è una decisione molto lungimirante, io penso, anche perché di solito uno dei criteri è la pericolosità sociale. Io non starei tanto tranquillo, insomma, non è che questo sia un signore non pericoloso. No, ma certo, non è che se uno è agli arresti domiciliari non può evadere e non può compiere quello che ha già compiuto. Comunque, insomma, c'è polemica. Il Corriere della Sera fa una pagina su queste parole, mettendo il titolo: non uscite da sole. Queste le accusa il procuratore per l'invito alle donne. Ovviamente viene accusato di una sorta di resa al crimine, cioè di resa. No, nel senso di una presa d'atto della situazione. Certo, arrivare a dire la situazione è questa, come hai detto tu, siamo in guerra e quindi se bombardano a una certa ora uno non si avventura per le strade a una certa ora mentre bombardano. Posso dire una cosa, Alessandro? Sì. Secondo me di pragmatismo ce n'è già fin troppo. Io penso che le donne italiane purtroppo lo sanno benissimo che stare fuori è pericoloso, cioè non ritengo sia necessario sottolinearlo in questo modo. Questo sì, tra l'altro lo so che il questore di Bergamo si è rifiutato di fare una conferenza stampa con il procuratore, apparentemente tutto a posto, in realtà anche questa decisione degli arresti domiciliari evidentemente con la polizia che ha braccato quest'uomo, l'ha preso nel giro di 24 ore, se lo vede dopo 48 ore uscire dal carcere e andare agli arresti domiciliari, forse è una cosa che non ha molto fatto piacere al questore. Vabbè, ci dobbiamo buttare un po' anche a commentare la politica, questa cosa. Siamo alla macchietta ormai, siamo allo show, siamo agli spettacoli, siamo alle manette, ai pifferi, pifferai magici, Berlusconi che incontra Ingroia, gli fa il segno delle manette, Ingroia che dice sì ma perché l'ha fatto come Mourinho, perché io sono interista e quindi lui è milanista, io sono interista, cioè, siamo così. Ieri Berlusconi era omnibus, sentite cosa ha fatto, ha picchiato in maniera simbolica con un cartello un giorno giornalista, Marco da Milano dell'Espresso. E io non sono riuscito a fare una riforma della giustizia, perché i soliti Fini, Casini, Follini e gli altri non me l'hanno lasciata fare. Non è riuscito a fare nulla, quindi cittadini figuriamoci la riforma. Io ho fatto tantissimo, no. Guarda, il rumore, cosa ho fatto? Il rumore, peccato che in radio non si possa vedere. Gli picchiava un cartello sulla testa. Vabbè, sentite Crozza, ieri Crozza su Berlusconi, che dice perché Floris tu non lo inviti? L'ho visto spolverare la sedia di travaglio, l'ho visto corteggiare la D'Amico, ha scambiato giletti per un giornalista, ha anche colpito un giornalista con un cartello. E tu non lo inviti? Stamattina Giovanni, fuori dagli studi della Sette, ha fatto il gesto delle manette ad Ingroia. Buonasera Ingroia, ma lei che riflessi c'ha? Ma Ingroia, ma un'occasione così Ingroia, ma quando le ricapita? E lo arresti un momento, ma per scherzo anche. Ma non poteva prenderlo al lazzo usando i baffi di Sandro Ruotolo? Pensa che sfortuna che c'è Ingroia, Giovanni, pensa. Berlusconi gli offre i polsi per farsi ammanettare quando lui non è più magistrato. 24 mattino. Dottor Mila, buongiorno. È imperativo mandarli a casa tutti. Votare 5 Stelle e no al canone Rai per legge. Ma davvero gli italiani potranno ancora far governare questi incapaci, demagoghi, mediocri e pericolosi? Ci hanno ridotto così come siamo e ancora si ripresentano. Monti in un anno ha ridato dignità a un popolo e a una nazione che non contava più nulla. Ma io... Ma la richiamo un'altra volta. Allora io voglio solo dire questo, che Berlusconi vada a raccontare il suo lamento a quei padri che dopo la separazione devono dormire in macchina, perché oltre a dover pagare gli alimenti perdono anche la casa. Io Berlusconi a dormire in macchina non l'ho ancora visto, ecco, speriamo che lo vediamo. Se io avessi una seconda casa che vale 400.000 euro, lo Stato pretenderebbe da me, come IMU, almeno 4.000 euro ogni anno. Se io avessi 400.000 euro in banca, in azioni, in fondi, lo Stato invece pretenderebbe da me solo 600 euro l'anno. È questa giustizia quella che ci dobbiamo aspettare? Ma mi fai intervenire per cortesia di fronte a quel pappone che sta parlando adesso? Se no, se sentiamo come due fidanzatini qua tutti i giorni, ascolti e non parli. Fammi intervenire per cortesia, eh? Io non ho i forconi, ma ho 3 matterelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione. 1 me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. L'abbiamo rispolverata, la signora straordinaria dei Matterelli. Dov'è finita? È un appello che abbiamo fatto. L'ho rimessa in coda alla segreteria perché vorremmo recuperare. Straordinario. Ho tre Matterelli, due li metto a disposizione. Uno se lo tiene perché non si sa mai. Se organizzate... Matterello! Sì. Se organizzate, chiamatemi. Fatemi sapere. Me la vedo subito che parte, lancia in resta. Anzi, Mattarello e il resto. Allora, siamo con Luca Dini e Paola Saluzzi. No, adesso Luca Dini, prima abbiamo scherzato, ma davvero c'è la copertina su padre Georg Genschwald. Beh, ma ho visto l'articolo di Andrea Tornielli, l'hai fatto, grande vaticanista. Ma come stavo leggendo i boccoli lunghi, i Pink Floyd ieri, questo è padre Georg, oggi invece la fama di sacerdote severo. Beh, è un ritratto interessante, ma chi è effettivamente questo uomo sacerdote che ha fatto sognare anche tante donne, diciamo la verità, Luca, perché è di una bellezza effettivamente non comune. Sì, e poi c'è questa cosa che lui ammette di aver avuto un po' di fastidio per il fatto di essere considerato principalmente per quel motivo, cioè di essere stato ribattezzato il Cluny del Vaticano e tutte queste cose. Però poi dice saggiamente anche alla fine è anche una cosa che fa piacere, non c'è niente, non c'è peccato in questa cosa, non c'è niente di male. Ed è un uomo che però, insomma, mi sembra che soprattutto negli ultimi tempi abbia dimostrato di godere di una fiducia e di un molto molto forte. Ah beh, sì, certamente. Dopo che con lo scandalo VatiLeaks sembrava essere stato messo un pochino al margine, invece con questa nomina arcivescovo a prefetto della casa pontificia diventa di fatto l'uomo più potente. E però non potrà mai togliersi quest'icona del prete bello, gli accostamenti, infatti voi lo mettete uccelli di rovo, ricordate il George Clooney del Vaticano e così. Paola Saluzzi non è però a disposizione perché è padre Georg, cioè, no assolutamente, no, te lo dico perché la bellezza in questo caso è un dono di Dio . E quindi come tale la considera, no, è singolare vedere come dono effettivamente, insomma, quello della bellezza venga portato addosso, è chiaro, non come un peso, perché diventa, per carità di Dio, una virtù, però venga portato addosso come uno zaino un po' pesante talvolta, e questo vale evidentemente anche per il bellissimo, ma soprattutto secondo me intelligentissimo padre Georg. No, questo sì. Questo l'avete sottolineato bene, di base c'è dietro a una bella immagine una grande capacità di gestire una situazione francamente che non si augura a nessuno in quanto a difficoltà, insomma devono essere delle giornatine piene sempre. Abbastanza. Oltre a quelle oltre legate alla Santa Fede, diciamo che c'è una gestione della cosa vaticana che semplice non è. Un po' intense. Non è disponibile, ma noi lo guardiamo sulla copertina di Vanity. No, è chiaro, è più disponibile, però non si può vedere, cioè sì, come si vuol dire, come si pronuncia, Psy, com'è il rapper, quello del Gangnam Style, dai, su, Psy, ecco, che Vanity Fair, non lo intervistate, ma spiegate chi è, questo qui che ha venduto quanto, io ho letto su YouTube 1 miliardo di click, una roba, no, tutti... Ha superato 1 miliardo di visualizzazioni. Mamma mia ragazzi, questo Gangnam Style, vabbè, insomma anche Crozza gli ha fatto il Silvio Style. Ma noi dobbiamo fare... Cos'è? Ah, eccolo qua. Mamma mia. Forza Paola, puoi ballare, tanto non ti vede nessuno a quest'ora. Ma io ballo tutte le mattine. Ah, ti svegli così con il Gangnam Style, mamma. Allora ti devo fare ascoltare questa, perché puntata bis del nostro esperimento di Meta e Cross Radio con Radio Italia. Che l'altra volta, lo sapete, Paoletta di Radio Italia mi ha mandato dei bacini e qua Paola Saluzzi si è arrabbiata, si è ingelosita, eccetera. Allora guarda cosa ti regalano da Radio Italia, insomma, senti un po'. Paola Saluzzi, senti. Non avresti potuto aprire in un modo più valengo e per farmi ingelosire, proprio questo è stato il modo peggiore. Ecco. Patrick, non hai niente da dire, scusa, intervieni, di qualcosa. No, ma io stavo pensando una cosa in tutto questo. Dai, dillo. Non so gli ascoltatori, ma io ho sempre avuto un debole proprio per le donne che fanno il giornalismo. No, ascolta Paola, che lo sanno fare bene, che fanno le interviste in televisione, che sanno fare la domanda giusta al momento giusto. Poi hai capelli rossi, che è una Patrick, cosa, ho già fatto io la stalker con Mila, non ti ci mettere anche tu. No, è una caratteristica molto affascinante quella di Paola Saluzzi, voce graffiante, no. Allora io vorrei chiudere lanciandole un messaggio, quindi chiudiamo questa cosa lanciandole questo messaggio, io personalmente. Saluzzi, Paola, oh Paola. Ecco. Un rosso relativo, cosa ridi? Ti hanno anche... Vabbè, adesso, adesso hai tu, Patrick, che ti messaggerà. È il mio mercoledì questo, tu. E certo, ti messaggerà. Ti messaggerà. Wow. Grazie, vabbè, grazie, vabbè. Troppo buoni. Allora, io vi devo salutare e ringraziare. Ricordo appunto che trovate Vanity Fair con Padre Georg. Essere bello non è peccato in copertina. Vi ricordo anche che non dovete preoccuparvi, caro Luca Dini, direttore di Vanity Fair, tu Paola Saluzzi, se oggi in redazione qualcuno farà una domanda stupidina perché scrive il Corriere della Sera che un giusto tasso di stupidità in ufficio fa bene. Basta questi Morte ai cretini, un vasto programma, dice il generale De Gaulle. Esatto, basta tutti questi intelligentoni perfettini, un po' di stupidità. Quindi accettate tutto quello che vi diranno di stupido. Oggi vi ringrazio, ci ritroviamo se volete mercoledì prossimo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:21 minuti, siamo qui per la lettura dei giornali e vi ricordo gli ospiti che avremo oggi alle 8:15. Avremo con noi Gabriele Albertini, uno dei candidati alla Regione Lombardia, ex sindaco di Milano. E poi alle 8:30 parleremo del tema dei cosiddetti impresentabili, candidati che hanno qualche problema a vario titolo con la giustizia nei vari partiti. Sarà con noi il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, che da giorni continua con questa campagna. Sarà con noi anche un deputato uscente del Popolo della Libertà, Alfonso Papa, che è una delle persone per le quali bisogna capire se ci sarà una ricandidatura. Allora, il tema è anche ben presente oggi sui giornali che andiamo per l'appunto a sfogliare. In questo mercoledì 16 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su fisco, imprese, famiglie, mini rimborsi IRAP, corsa in salita. E poi anche un sottotitolo sul redditometro, che è l'apertura invece del Corriere della Sera. Così partirà il redditometro, spese, scontrini, i controlli saranno 35.000, colpiti i finti poveri. La politica invece per Repubblica, il PPE, cioè il Partito Popolare Europeo, scarica Berlusconi. Per La Stampa parte la corsa al Quirinale, il no di Draghi a Berlusconi. Il Giornale, 169 partiti. Il Fatto Quotidiano, Marchionne mette Monti in cassa integrazione. Libero, Monti Pinocchio, e c'è Monti proprio disegnato con il naso lungo. Il Messaggero, il PPE con Monti, ira di Berlusconi. L'Unità, Marchionne scarica Monti. Il Secolo XIX, Fiat Melfi, 2 anni di cassa. Mentre il manifesto Senato Corral, l'incertezza proprio del voto al Senato, mentre Avvenire Monti studia il fattore famiglia. Come vedete non c'è un titolo che unifica un po' tutti i quotidiani, ognuno fa una scelta propria, i temi sono quelli, insomma, tra la politica e l'economia. Allora, alle 6:30 un po' l'abbiamo accennato, ma è un articolo dal quale voglio partire perché... Per chi non fosse con noi, pigroni che arrivano adesso, è sicuramente un articolo che prende spunto dalle parole polemiche del procuratore capo di Bergamo, Francesco Dettori, 72 anni, che è stato intervistato dall'Eco di Bergamo 2 giorni fa e oggi il Corriere rilancia la polemica sullo stupro avvenuto a Bergamo da parte di un cittadino del Kosovo che poi è stato messo agli arresti domiciliari. Che cosa ha suscitato polemiche in questa intervista? Beh, la frase del procuratore che è sintetizzata nel titolo del Corriere della Sera così: non uscite da sole. Le accuse al procuratore per l'invito alle donne. Racconta Armando Di Landro sul Corriere a pagina 19, le polemiche per gli arresti al facchino kosovaro accusato di violenza sessuale si stavano quietando, ma il procuratore di Bergamo, Francesco Dettori, ha aperto un nuovo fronte con queste parole dette all'Eco di Bergamo. Le donne sono l'anello debole di una società in cui è parzialmente ancora inculcata l'assurda mentalità della femmina come oggetto del possesso. E fino a qui, insomma, un'analisi che si può anche condividere, ma qui poi le parole che fanno discutere. Lo dico con tutto il rammarico, ma sarebbe bene che di sera le donne non uscissero da sole. E ancora, non voglio colpevolizzare la giovane che ha subito violenza, anzi a lei vanno le nostre scuse per non avere saputo offrire la degna protezione, ma a volte bisogna ragionare in termini realistici. Ecco, questa è un'altra frase che ha fatto discutere, parole che sono sembrate sale sulle ferite di una città che non ha mai avuto gravi problemi per la sicurezza, per la quale un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza che esce da un locale notturno è un evento straordinario, capace di creare un'onda emotiva difficile da contenere, scrive il Corriere della Sera. E infatti le reazioni non si sono fatte attendere nei confronti delle parole del procuratore, da parte della politica, tutti a condannarlo, a dire ma come? Allora è una resa al crimine, le donne non dovrebbero uscire da sole, non dovrebbero uscire se non accompagnate, quasi un invito addirittura a prendersi una guardia del corpo o qualcuno che le accompagni, limita la libertà, è una resa appunto di fronte ai criminali. Insomma, le critiche un po' trasversali nei confronti del procuratore per questa frase e questo invito pragmatico, realistico alle donne: sarebbe bene che non uscissero da sole la sera. A proposito di giustizia, saltando al secolo XIX, ha davvero dell'incredibile la storia che viene raccontata da Marco Grasso e Matteo Indice e che riguarda il sequestro dell'imprenditore Andrea Calevo. Ricordate, di recente, fortunatamente poi si è risolto bene, perché l'uomo è stato individuato, i rapitori individuati, i sequestratori presi e consegnati alla giustizia. Uno di questi sequestratori è Pierluigi Destri. Ebbene, la storia che ha dell'incredibile è questa. Destri è il rapitore che fu graziato due volte. Cari ascoltatori, per chi non lo sapesse, la grazia è un provvedimento ad personam che va preso dal capo dello Stato in persona. Ebbene, Destri è stato graziato in passato, racconta il secolo, due volte da due diversi presidenti della Repubblica, un qualcosa che ha dell'incredibile. C'è chi commette un errore lo paga per tutta la vita, scrive il secolo. Chi invece ha la fortuna di avere un'altra possibilità, Pierluigi Destri, uomo a cui non ha mai fatto difetto la buona stella, appartiene di sicuro alla seconda categoria. Due diversi presidenti della Repubblica negli anni passati gli avevano concesso la grazia, un provvedimento ad personam che si attribuisce raramente e non si ripete quasi mai. Una combinazione difficile da credere oggi che è accusato di aver ideato e sequestrato e organizzato il sequestro dell'imprenditore Andrea Calevo. Una verità rimasta sepolta per anni, contenuta negli archivi del Ministero della Giustizia, un precedente di fronte al quale sono rimasti attoniti perfino gli inquirenti che hanno lavorato alla liberazione dell'ostaggio. Ebbene, lo Stato italiano non una, ma due volte, e aggiungo io non lo Stato italiano, ma il rappresentante più importante, il capo della Repubblica, hanno creduto nella riabilitazione di Destri, fino a poco fa semisconosciuto costruttore dall'inguaribile fascinazione per tutto ciò che è illegale, dagli incendi dolosi, gli abusi edilizi, le tangenti, le truffe. Eppure negli anni 70, a pescare il suo nome in mezzo a quello di migliaia di detenuti, sono stati ben due capi di Stato, il socialdemocratico Giuseppe Saragat e il democristiano Giovanni Leone, e altrettanti guardasigilli, cioè ministri della giustizia Emilio Colombo e Francesco Paolo Bonifacio. Cosa abbia ispirato allora tanta magnanimità è un enigma difficile da risolvere. Ma davvero è una cosa da rimanere sicuramente attoniti. Ripeto, la grazia è un provvedimento personale. E poi una volta che è stata graziata una persona e ricade in problemi la giustizia e rifinisce in carcere, che si fa? Lo si rigrazia per la seconda volta? O è nato sotto una buona stella o ha una coincidenza astrale che lo protegge, o non lo so che diamine è successo. Comunque Pierluigi Destri, il capo della gang che sequestrò Calevo, in passato ha avuto due provvedimenti personali di grazia firmati da due capi della Repubblica. 24 mattino. E allora alle 7:34 minuti siamo qui, cari ascoltatori. Io provocatoriamente, sapete, su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, anzi se volete seguirmi siete benvenuti, ho detto e dico quotidianamente c'è da fare un falò con i giornali per la scarsa presenza di argomenti davvero interessanti per quel che riguarda la politica, è tutta una questione di posizionamenti, di alleanze, di coalizioni, ma sui programmi nulla per il momento. Oggi è una vera e propria sciagura, ci sono giornali che hanno aperto, il Corriere della Sera, La Stampa, sulla corsa al Quirinale. E cosa c'è di più lontano dalla percezione dei cittadini sulla corsa al Quirinale come successione di Napolitano? Perché ieri Berlusconi ha candidato, in qualche modo ha detto sarebbe auspicabile Mario Draghi si è subito affrettato con un portavoce della BCE a smentire, ed ecco qui i giornali subito dietro, la corsa verso il Quirinale, un rebus ancora aperto, un'intera pagina 3 della Stampa, firma Antonello Rampino, e ci credo che è ancora aperto, insomma mancano mesi e mesi, è una cosa che probabilmente non interessa quasi nessuno, se non appunto la stretta politica, ma così anche il Corriere della Sera ci dedica ben due pagine, pagina 2 e 3, Berlusconi, Draghi al colle, subito arriva il no. E poi anche qui i nomi che si fanno sono i soliti, a parte Mario Draghi, Giuseppe Pisano, Giuliano Amato, Romano Prodi, Anna Finocchiaro, questi sono i nomi con tutta la corsa, l'intreccio, gli intrighi se volete, ma dal 15 marzo, prima riunione delle nuove Camere, si inizierà a discutere anche di questo. In ogni caso, la politica poi ieri ha fatto registrare forse la notizia più dalla quale vi ha dato più risalto da alcuni giornali, il fatto che il capo degli eurodeputati, il presidente degli eurodeputati del Partito Popolare Europeo, il francese Joseph Daul, ha detto che il candidato ideale più vicino al Partito Popolare Europeo in Italia è Mario Monti. Questo ha suscitato le ire di Berlusconi, dei berlusconiani, un intervento a gamba tesa, un intervento sbagliato nella politica italiana, c'è da dire che è un po' un'appendice di, ricordate, quel vertice del Partito Popolare Europeo in cui Berlusconi arrivò e si trovò lì Mario Monti, invitato all'ultimo. Tra l'altro il presidente degli eurodeputati del PPE ha anche aggiunto una frase, secondo me la più interessante, il giudizio sull'attuale politica italiana, ha detto: il candidato è il signor Monti, ma come sempre il caso Italia è complicato. Insomma, anche questo presidente francese dei PPE, anche lui l'ha capita che in Italia c'è un pizzico di confusione, come sempre in Italia le cose sono un po' complicate. E ha aggiunto c'è Monti, però c'è anche Berlusconi. Insomma, complicate. D'altronde, volevamo il bipolarismo? No, ricordate? Quando c'era stata la campagna Veltroni e Berlusconi, poi vinta da Berlusconi, no? Votate o noi o loro, basta partitini, ci vuole il bipolarismo, bisognerebbe arrivare come in America, due grandi partiti, un partito di centrosinistra e un partito di centrodestra, democratici e repubblicani, due grandi coalizioni, due schieramenti. Risultato? I simboli che si presentano alle prossime elezioni sono 169, molti sono stati cassati di quelli che si erano presentati, 169, infatti questo è il titolo del giornale, 169 partiti, e l'editoriale di Vittorio Feltri lo chiamano bipolarismo, infatti siamo a 169 partiti i cui simboli sono la fotografia del caos nel quale è precipitata la politica, un carnevale che fa morire dal piangere, liste di ogni tipo, alcune banali, altre scherzose, altre ancora ai limiti del surreale, e per fortuna non tutte quelle presentate sono state accettate, ne hanno cassate 16 per manifesta assurdità e 34 saranno ritoccate. Comunque, scrive ancora Vittorio Feltri, il cittadino abbia contezza che a questo punto siamo giunti. La gamma delle opportunità di scelta è talmente vasta da far perdere la sinderesi a chi la esamini. Chi la guarda ha la sensazione di trovarsi di fronte non a una cosa seria come dovrebbe essere l'elezione per il nuovo del Parlamento, ma al gioco dell'oca. E poi l'accusa di Vittorio Feltri, cosa è successo? E qualcuno dice è l'effetto Monti. In realtà, naturalmente, la faccenda è ben più complicata. Comunque siamo a questo, 169 partiti. E poi che cosa? Una campagna elettorale che è stata negli ultimi 24 ore buttata un po' anche sulla burla. Si parla tanto, ma poi quello che appare sui giornali cosa sono? Il pifferaio, tassa misto piffero, le manette, il gesto del Mingroia che incrocia Berlusconi, Berlusconi invece di dargli la mano gli dà la mano a forma di manette, Ingroia che dice ma sì lo ha fatto perché voleva imitare Mourinho che è interista e quindi io sono interista e lui è milanista, poi Ingroia va a Rai 1 e viene rappresentato e si fa fotografare nella trasmissione Un giorno da pecora, si fa fotografare, c'è una foto proprio di Ingroia con il conduttore con le manette, entrambi le manette vere, per carità, tutto insomma uno scherzetto, un gioco eccetera, ma certo vista così e vista per immagini sembra la campagna elettorale che almeno nelle ultime 24 ore è scesa un po' nel farsesco. Filippo Ceccarelli su Repubblica mette in prima pagina, concentrandosi soprattutto su Berlusconi, il modo di fare di Berlusconi, le comiche di Silvio tra manette e lavagna, attenti alla sfida buffona, scrive Ceccarelli, al confronto dell'ultimo Berlusconi che purifica le sedie col moccichino e brandisce la lavagnetta, Grillo sembra un politico quasi a modo. Sempre più il cavaliere appare su di giri, se spettacola da essere questa sciagurata telepolitica, lui ci dà dentro. Ieri ha incontrato Ingroia, ha fatto il gesto delle manette, tutti ridevano intorno a loro. E anche dopo, per spiegare il contagioso sibaretto, al magistrato è parso naturale evocare con un sorriso l'Inter, il Milan. Berlusconi, scrive Ceccarelli, è un grande mimo. Negli annali visivi della Repubblica gli si è visto sigillarsi la bocca, far scorrere sulla fronte l'ideale scritta che ci ho scritto giocondo, fingere un malore dopo aver assaggiato una mozzarella, a Buscia mostrato e fatto toccare i muscoloni, al cospetto di Putin si è esibito nel numero muto della mitraglietta, facendo piangere una giornalista russa. A volte per lui la parola, che pure maneggia con narcotica perizia, è puro optional. E a graziosa riprova valga il primato exequo con Bossi, che lo vede l'unico leader che ha completato il tris dei gestacci, corna, dito medio e gesto dell'ombrello. Scrive ancora Ceccarelli, oggi non ha molto da perdere, quindi sta dando il meglio di sé, che spesso coincide con il peggio. Ovviamente l'articolo di Repubblica è molto critico, come spesso accade nei confronti di Berlusconi, ma insomma... E certo, poi ha anche dato una cartellata in testa a un giornalista dell'Espresso, tutto per celia, tutto per burla, tutto si fa per dire, ovviamente insomma non è neanche da aggiungere per quella dose magari piccola di avanspettacolo, di spettacolo che è la fase della politica e delle sue competizioni elettorali. Sta di fatto che il risultato è che anche oggi sui giornali di contenuti dei programmi zero, sotto zero. Ieri il Sole 24 Ore almeno ci aveva dato una riprova insomma, dei conti pubblici eccetera. Oggi zero, siamo tornati al gelo artico o antartico. C'è un tema che però affronteremo noi alle 8.30, che si profila giorno dopo giorno sui cosiddetti impresentabili all'interno dei vari partiti, perché oggi ci sono vari articoli su questo da sottolineare. Intanto Nicola Cosentino, una delle persone più controllate all'interno del Popolo della Libertà sulla possibile ricandidatura, per lui era stato chiesto anche l'arresto, poi respinto dalla Camera, viene intervistato da Ottavio Lucarelli su Repubblica, pagina 9. Non sono impresentabile, candidare me è un bene. Se sarò candidato è un bene, il presidente Berlusconi è stato chiaro del problema che riguarda gli indagati, si occuperà un comitato di avvocati parlamentari, si valuterà caso per caso. Mi accusano questi pentiti, camorristi ergastolani, questi schifosi che hanno ergastoli da scontare e patrimoni da salvare. Sono perseguitato da anni, ma le sentenze saranno certamente di piena assoluzione. Così Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia, che tra l'altro dice ho chiesto il rito abbreviato, e alla domanda è sicuro di essere assolto? Sono sicuro della mia innocenza, poi certo siamo nelle mani del Signore. Così Nicola Cosentino, mentre su Repubblica intervistano, dopo l'articolo indagati il PDL salva Cosentino, mentre i democratici si affidano ai garanti, oggi il comitato di garanzia presieduto da Luigi Berlinguer del Partito Democratico si riunisce per esaminare caso per caso, ci sono dei nomi che da giorni sulla stampa sono chiacchierati per i loro problemi giudiziari. Ebbene, uno di questi nomi è Vladimiro Crisafulli, grande collettore di voti a Enna, in Sicilia, e che oggi Mario Aiello per Il Messaggero intervista. Io con la mafia zero rapporti, non ho paura, Bersani è un uomo saggio. Così il senatore Crisafulli ha paura? Spero che lei stia scherzando, risponde. Nulla a che vedere con la mafia? Questa è una balla che raccontano i giacobini. Se avessi un rinvio a giudizio, una condanna per mafia, lo capirei. Ma io sono pulito, pulitissimo. C'è però un problema, un rinvio a giudizio per abuso d'ufficio con l'accusa di aver fatto pavimentare una strada che porta alla sua villa di Enna. E la risposta di Crisafulli è: non porta alla mia villa, ma porta quella strada in un posto dove vivono una trentina di famiglie. Qui non è aggiunto, tra cui anche la sua, ecco, però dice non è stata fatta per me ma per una trentina di persone. Quella strada comunale collega due strade statali, le autorità non hanno controllato che è stata fatta un po' più lunga di quanto era previsto, e io che c'entro con quel presunto abuso? Ma perché allora ce l'hanno con lei? Chiede Aiello. E me lo dica lei, io mica lo so, anzi sì lo so, mi vogliono male perché io sono importante a Enna. E poi dice: sono tranquillo, la mia tranquillità è data dal fatto che Bersani è un uomo equilibrato e sapiente. Attenzione però ai veleni, perché c'è un veleno o una notizia che c'è sui vari giornali, sul Fatto Quotidiano, Libero, La Stampa, che riguarda Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino, tra l'altro che vive sotto scorta, minacciata come Roberto Saviano dalla Camorra, perché per da anni denuncia questo, e che però, scrivono i giornali, è finita in un'inchiesta, è sotto processo per calunnia. Addirittura Libero scrive così, riprendendo il giornale Gazzetta di Caserta: secondo Tommaso Montesano c'è un'intercettazione in cui l'indagata Rosaria Capacchione parla di un finanziere che starebbe indagando sugli affari del fratello di Rosaria Capacchione, che è un imprenditore edile, e ne parlerebbe in questi termini, secondo Libero. Rosaria Capacchione, un'intercettazione telefonica, dice del finanziere: lo andiamo a uccidere col mitra. Ma addirittura. Per il Fatto Quotidiano la macchina è la macchina del fango, si parla di questo articolo che continua ricostruendo l'attività imprenditoriale di Salvatore Capacchione, il fratello della giornalista, dei suoi affari, di un giro vorticoso di assegni transitati sui conti correnti della giornalista. E una frase attribuita alla giornalista della Gazzetta di Caserta in questa intercettazione riguarda il finanziere è: se non la smette lo andiamo a uccidere col mitra. Così anche sulla Stampa: processo per calunnia, la cronista anticlan imbarazza il Partito Democratico. Insomma, non si capisce più niente. È il momento anche delle fango o non fango o l'impresentabile. Ora dal PDL, il coordinatore del PDL Nitto Palma in campagna dice: vedete, anche la capolista Capacchione ha dei problemi, ma noi siamo garantisti e non abbiamo detto nulla. E non è finita, nel senso che sul giornale a pagina 7 ce n'è anche per la cosiddetta cognata di Casini. Noè si chiama, candidata Silvia Noè, che racconta il giornale con Andrea Zambrano, usa soldi pubblici per le interviste. Ricordate la vicenda di soldi pubblici usati da consiglieri dell'Emilia Romagna per fare interviste su TV, interviste quindi insomma compiacenti, si può immaginare, e tra queste c'era anche Silvia Noè, che racconta al giornale, si difese così: così fan tutti, ammise candidamente. Silvia Noè è la moglie del fratello di Pier Ferdinando Casini. Mentre invece viene intervistato da Repubblica colui che, ecco il mistero, Casini ha detto c'era anche il futuro genero, cioè il Fabrizio Anzolini, candidato in Friuli, ed era il fidanzato della figlia di Casini. Era il fidanzato, perché Casini in un'intervista ha detto: non è mio genero e mai lo sarà. E infatti insomma sono andati subito a intervistarlo e lui ammette: ci siamo lasciati io e sua figlia 7 mesi fa. E comunque oggi dice: mi ha messo al terzo posto l'UDC in Friuli, ma noi qui in Friuli otterremo un solo eletto. Io sono al terzo posto, il primo rinuncerà perché sceglierà è Galletti, e quindi sceglierà anche, opterà per un altro seggio, l'eletto sarà il numero 2 in lista. Io insomma sono stato anche un po' fregato, sfidanzato e fregato in realtà. Allora, andiamo un po' a raccontare di tasse e cronaca. Le tasse sono il redditometro. Oggi il Corriere della Sera racconta, con l'apertura di prima pagina, tutti gli sconti del fisco. È prevista per oggi la circolare chiarificatrice di quello che è il redditometro, quello che non ha padre. No, nessuno l'ha voluto, nessuno lo vuole, come l'IMU, nessuno la vuole. E infatti ci sono molti articoli sui giornali, anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, firma Massimo Fracaro e Nicola Saldutti: tasse senza padri. E notate questa cosa strana. In campagna elettorale, cari ascoltatori, nessuno è il padre delle tasse che abbiamo. L'IMU chi l'ha messa? Boh, forse Peter Bescapè, il nostro alpino, l'ha stabilito lui. Il redditometro chi l'ha stabilito? Ma forse Miriam Lucchetti, la nostra collaboratrice al di là del vetro. Forse siamo stati noi a mettere le tasse. Nessuno ha messo le tasse. Infatti scrivono Fracaro e Saldutti in prima pagina: non c'è bisogno di scomodare un principio antico, nessuna tassazione senza rappresentanza. Qui siamo addirittura al fronte opposto. Nessuno, ma proprio nessuno dei candidati alle elezioni e dei loro schieramenti finora si è dichiarato padre di qualche imposta. Come dire, le tasse sono una categoria dell'arte di governo, ma con la particolarità unica nel mondo di non avere genitori. È l'IMU, redditometro, e poi si raccontano tutte le tasse di cui tutti dicono ora: bah, io non le ho volute il mio predecessore. Comunque, il redditometro, sono previsti per il Corriere della Sera 35.000 controlli quest'anno, e dunque i controlli potrebbero essere 70.000, perché gli accertamenti sintetici sono 35.000, i controlli in realtà 70.000 su una platea di 40 milioni di contribuenti. Non sono dunque quelle campagne a tappeto molto intense di cui si parla. Comunque, oggi sarà la circolare che chiarificherà da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dovete, imperdibile, leggere l'articolo di Claudio Gatti in prima pagina del Sole 24 Ore. Racconta Lance Armstrong, la missione che ha fatto, anche se l'intervista non è ancora pubblica, verrà diffusa domani a Oprah Winfrey. Ha parlato 120 domande, la più importante giornalista di talk show americana. Oprah Winfrey è riuscita a far confessare Lance Armstrong, il ciclista: mi dopavo. Perché è imperdibile l'articolo di Claudio Gatti? Perché ha un taglio molto interessante, il doping e la forza degli sponsor. Lo trovate in prima pagina sul Sole, poi un'intera pagina 11. Perché in primis serve a vincere, ma il doping serve soprattutto a fare soldi, molti soldi. In due decenni di attività come ciclista professionista, Lance Armstrong ha accumulato un patrimonio stimato attorno ai 125 milioni di dollari. E in questo articolo Claudio Gatti smaschera tutti i legami tra il doping, gli atleti e gli sponsor, che spesso, e questa l'accusa, sono i primi a sapere. Sono i primi in qualche modo anche a incentivare l'uso del doping da parte dell'atleta, perché i soldi vanno all'atleta, ma quindi vanno anche allo sponsor, che sponsorizza e ne beneficia in termini di immagine. E poi gli sponsor sono i primi a scaricare totalmente l'atleta una volta che viene scoperto. Il caso di Lance Armstrong, ma il caso anche di Alex Schwarzer, racconta Claudio Gatti, con la Ferrero che l'ha scaricato subito. È il caso come del ciclista Ulrich in passato e la Deutsche Telekom. Insomma, tanti intrecci, e un articolo davvero, secondo me, imprescindibile. L'ombra degli sponsor dietro Armstrong lo trovate sul Sole del 24 Ore in prima pagina e poi all'interno a pagina 11. Mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua, allora sono le 8:16, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, per parlare di attualità politica, con noi c'è uno dei candidati alla Regione Lombardia, vale a dire Gabriele Albertini, che saluto. Buongiorno Albertini. Buongiorno, benvenuto. A lei e chi ci ascolta. Il Movimento Lombardia Civica. Senta, intanto le faccio subito questa domanda. Ha sentito che Bersani dice qualunque voto che non vada al PD è un voto perso, è un favore al centrodestra, un favore a Berlusconi. Lei, che è data ai sondaggi non certo al livello di Maroni e Ambrosoli, non rischia di far perdere il PD, come dice Bersani? Perdoni, ma non sono problemi miei, sono problemi di Bersani. Noi abbiamo solo l'obiettivo di essere coerenti con un progetto e di cercare, con la credibilità del progetto e umilmente delle persone che lo segnalano e lo rappresentano, di realizzarlo ricevendo la fiducia dei cittadini. Quindi il perdere o vincere è una necessità per governare. Vincere, intendo dire, ma non è lo scopo di tutto. Non siamo per il potere come fine, il potere è un mezzo. Senta, però lei in alcune interviste dice in realtà punto alla vittoria. I sondaggi, glielo dico, per esempio Ipsos, l'avrà visto anche ieri dato dai giornali, danno Ambrosoli al 39,8 e Maroni al 39,6 più o meno appaiati, e lei all'8,5%. Sono... Sì, ce n'era un altro che dava dei esiti diversi, ero quasi all'11, altri ancora che mi danno al 15 o 16, ma veda, io sono da solo con la lista civica e loro hanno ingenti partiti, quindi è chiaro che partiamo con delle situazioni divergenti anche dal punto di vista quantitativo. Noi naturalmente ci proponiamo di dare ai cittadini una risposta ai loro desideri e ai loro bisogni diversa da quella che offrono i due grandi schieramenti. La Lega vuole uscire dall'euro perché raccoglie un firme per un referendum e vuole la secessione fiscale. Il PDL è diventato la succursale della Lega da una parte, e dall'altra c'è una degna persona come Ambrosoli che però si accompagna ad altre degne persone, ma che hanno idee assolutamente sballate rispetto all'agenda Europa. Vendola vuole fare marcia indietro al nostro paese sulla modifica dell'articolo 18 che l'ha un poco avvicinata all'Europa in tema di flessibilità del lavoro, era una delle contestazioni che ci facevano, non vuole gli investimenti europei come la TAV e raccoglie firme per cancellare l'ultima riforma pensionistica che è stata in realtà necessaria e indispensabile, direi, per non far cadere il nostro paese nel default in cui stava finendo. Dovesse non andare bene per lei, visto che è una delle cose lei dice, lei stesso dice, non puntiamo per forza la vittoria per il potere, chi preferirebbe tra Ambrosoli o Maroni come governatore? Guardi, in termini personali il rapporto con Ambrosoli è, posso dire, di stima, di amicizia anche proprio personale, perché una mia nipote è sua amica e poi negli anni in cui sono stato sindaco ho istituito una borsa di studio che ogni anno premiava 3 studenti in memoria del padre Giorgio, sì, che avessero fatto una tesi su argomento etica in economia. Il presidente della giuria era niente meno che Gerardo Corombo, noto pubblico ministero del pool Money. Certo. In quell'occasione ho conosciuto sia lui che la famiglia, che la mamma Natoria, e quindi un rapporto personale. Con Maroni è stato un rapporto professionale quando era ministro del welfare, abbiamo avuto in comune anche il povero Marco Biagi come consulente, io prima di lui per il patto per Milano, che ha anticipato un po' gli interventi in regime di riforma della legislazione sul lavoro, che poi sono stati fatti propri dal insomma, governo. Con tutti e due buoni rapporti, però questa è una risposta un po' democristiana. Con tutte... La risposta equa, penso che corrisponde alla verità, cioè in termini personali posso dire di essere più amico di Ambrosoli. Però chi farebbe, chi farebbe meglio per la Lombardia? Ecco, mettiamo. Ma guardi, io penso che un governo leghista della regione più europea d'Italia, è più moderna, è più avanzata, cioè un presidente di regione che vuole uscire dall'euro e che vuole la secessione fiscale, senza peraltro essere riuscito, quando era al governo lui e gli altri colleghi, neanche a spostare lo 0,17% che chiedeva Formigoni per premiare la regione virtuosa di trasferimenti. Beh, è qualche cosa che davvero, come posso dire, un ossimoro, cioè la regione più europea d'Italia che viene governata da un anti-europeista, mi sembra veramente un paradosso. Dall'altra parte però devo dire, se si facesse condizionare dalla componente massimalista e ideologica, in altri termini, se fosse obbligato, perché vi acconsente, a cancellare tutta l'intervento, diciamo, del privato in campo sanitario e statalizzasse la sanità lombarda, farebbe un danno di una gravità inaudita, perché è una delle qualità della nostra regione questo rapporto collaborativo tra pubblico e privato. Senta, lei l'ha citato Formigoni, allora il rapporto tra lei e Formigoni, lei si sente, è vero che il concetto di tradimento in politica per qualcuno non esiste neppure, non si può parlare di tradire in politica, ma si sente tradito da Formigoni che prima l'ha appoggiato e poi adesso invece sta con Maroni? No, non mi sento tradito, perché come lei giustamente citava, il tradimento nei rapporti privati e personali è fatto in un certo di un certo contesto e di certi valori di riferimento. Qualcuno considera la duttilità dei comportamenti in politica quasi un pregio della professionalità del politico. nel caso di Formigoni non si può dire che non lo sia. Prese più voti di Scalfaro quando era uno studente universitario alle europee e quindi adesso è da quasi 20 anni presidente della regione. Ha fatto un calcolo di convenienza, legittimo dal punto di vista politico, non era più praticabile il progetto che abbiamo condiviso, il PDL è diventato la succursale della Lega. Suggerisco a Berlusconi un nuovo nome per il suo partito, Forza Lega. E a questo punto aveva due scelte, o fare come Mario Mauro. E come me e stare in un'altra area politica, fondare il PPE italiano e avere questa visione, insomma con Monti, oppure ritornare da Berlusconi. Ha fatto un calcolo politico, però adesso non so quanto più conveniente, nel breve sicuramente, nel medio lo vedremo. Questo lo vedremo, però c'è quella frase, Alberti, lei sa che forse lei si è lasciato sfuggire, almeno nei toni, perché quando lei dice di Formigoni non mi stuzzichi perché so di lui cose che lo manderebbero KO. Cioè il modo è come dire so delle cose che nessuno sa. Vorrei chiudere questa vicenda perché è stata molto montata oltretutto in maniera sconcertante. Però lei l'ha detta così, cioè ha detto... No, io ho fatto riferimento a argomenti che non avevano niente a che vedere con fatti penali, mafia o montature così... Ma fatti invece personali? Fatti personali? Avevano fatto riferimento alla sua battuta che mi aveva molto infastidito, cioè, ma Albertini è più professionista di me perché è seduto al Parlamento sulla sedia di deputato europeo e poi corre per il Senato della Repubblica e per la Presidenza della Regione. Mi ha dato fastidio perché di questi argomenti, liste e candidature, forse è meglio raccontare troppe cose. Il fastidio è legittimo. Il fastidio è legittimo, le schermaglie ci sono in campagna elettorale. Niente di più di questo e niente oltre, se mi permette. Ci sono argomenti molto più importanti, visto che parlo con una radio che ha come editore l'associazione industriale. 224.000 licenziamenti nel 2012 in Lombardia, sono un problema più grosso delle battute con me, io con lui. Però allora chiudiamola qui dicendo che forse lei nel linguaggio ha detto un qualcosa, magari nel modo un po' esagerato. Cioè, Comunque attribuirmi una responsabilità, ce l'ho, la prendo, però la responsabilità più grossa è stata di chi ha travisato scientemente questo argomento ne ha fatto una questione assolutamente improbabile di chissà quali segreti, quali ricatti e quali inconfessabili argomenti addirittura mafioso o penale. Questo veramente è solo nello stile tipico di chi vuole realizzare, inventare degli scandali su niente. Parliamo di economia. Il 75% delle tasse da tenere al nord, come chiede Maroni, è un'utopia o un qualcosa di concreto? Come dicevo prima, quando la Lega era al governo con il ministro del federalismo, col ministro dell'interno, lo stesso fondatore Bossi, Calderoli, insomma ad alto profilo, non è riuscita, dicevo, a trasferire alla regione Lombardia lo 0,17% di tasse in più che chiedeva Formigoni proprio in ragione dei bilanci virtuosi della Lombardia rispetto alle voragini di altre regioni. Quindi diciamo che sta raccontando delle chiacchiere, perché quando ha avuto la possibilità, anche in maniera infinitesimale, col ministro Tremonti, che adesso è il leghista più leghista di tutti, non è riuscito a fare neanche questo. Poi, se si volesse invece fare un'osservazione su questa ipotesi, allora leggiamo il libro di Luca Ricolfi, Il Sacco del Nord. Sì. Il 70% del reddito marginale, cioè escluso quello derivante, per così dire, impropriamente dalla pubblica amministrazione, dico impropriamente perché è valutato il PIL della pubblica amministrazione pari al suo costo per un artificio contabile paradossale, ma diciamo, il reddito market è dalla regione Emilia in su è il 70% di quello dell'Italia. Trattenere il 75% del 70% equivarrebbe a trattenere in quei territori e solo in quei territori il 52-50% del reddito, il che vuol dire che da Bologna in giù il resto dell'Italia dovrebbe vivere, nel senso carabinieri, polizia, magistrati, scuole, ospedali, lavori pubblici, con la metà di quello che utilizza ora. Quindi, devo dire, sarebbe una secessione fiscale è una responsabilità che nessun Parlamento potrebbe mai prendersi, neanche con i quindi, due terzi. Ma questo dal, punto di vista della realizzazione, cioè lei vede difficile che un governo centrale, un Parlamento centrale approvi una cosa del genere, ma dal punto di vista del principio è allora giusto? Dal punto di vista del principio è altrettanto incongruo, perché vorrebbe dire abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità sì. d'Italia e adesso a qualcuno viene in mente di tornare indietro e di incenerire la nostra storia. Però è congruo dall'altra parte che, mettendola in maniera brutale, il Nord paghi per tutti? No, questo no, ma infatti io credo nella Lega di Miglio, non in quella di Bossi e Maroni. Le macro regioni servono per articolare diversamente la distribuzione del reddito prodotto in maniera più congrua. Basti dire che, non so, la Lombardia ha il 12% di evasione fiscale e la Calabria ha l'85% sul suo PIL, che la Lombardia ha meno di 4.000 dipendenti come istituzione regionale e la Sicilia ne ha 24.000, avendo la metà degli abitanti e un decimo del PIL. Cioè ci sono delle incongruità assolute e queste si fanno. Questi meccanismi di perequazione devono essere condotti, ma non con una boutade come quella che viene rappresentata, perché serve solo a mettere l'anello al naso ai cittadini e non dà nessuna speranza di realizzazione. Senta, lei si candida anche al Senato con Monti e allora dicono eccolo lì il paracadute. E quando gli hanno detto di non candidarsi, lei ha detto col cavolo, se non sbaglio, di mollare. No, per la verità non ho risposto in questo modo, non mi hanno insegnato a parlare così. Col piffero. Rispettoso dell'educazione che ho ricevuto. Ho semplicemente detto che nel momento in cui la nostra posizione è quella soprattutto di dare una testimonianza della presenza in Lombardia di un'area politica, di un'offerta politica che si identifica nella offerta politica del presidente Monti, cioè l'agenda Monti applicata alla Lombardia, sì. è appropriato che chi è il candidato governatore possa essere, anche per esprimere questa contiguità oltre ogni ragionevole dubbio, perché c'è qualche ambrosoliano, per così dire, nella lista Monti, che questa identificazione c'è ed è visibile. Ma che si candida anche al Senato. Quindi è appropriato, non è un paracadute, come dire, tanto ha ragione, non vinco. Di più, anche perché, mi permetta, io potevo andare in carrozza come capolista al Parlamento nazionale, anzi proprio al Senato, sì. perché avevo ricevuto questa generosa offerta dal presidente Berlusconi se mi fossi ritirato dalla competizione per la presidenza della Lombardia. Ah, certo. Mentre per andare al Senato con Monti devo raccogliere le firme, ci sono dei banchetti anche per la regione Lombardia, perché la nostra è una lista civica che non ha nessun partito con i suoi apparati e i suoi mezzi economici. A proposito di questo, visto che devo concludere, Berlusconi, anche se sarebbe un capitolo lunghissimo dei suoi rapporti con Berlusconi, le chiedo solo questo: lei lo definirebbe, l'avrebbe definito come Monti un pifferaio magico? Ma guardi, l'ho definito così, Monti non se ne è accorto e non credo proprio che l'abbia mutuato da una mia intervista, in una precedente intervista, quindi siamo stati telepatici. L'ispiratore di Monti, l'ispiratore di Monti. Mi permetta, lei vada a vedere sui giornali, c'è un'intervista, credo, alla Stampa o alla Repubblica, non ricordo bene, in cui lo definisce così. E Monti chiaramente non l'ha letta né se ne è accorto, ma magari sì anche lui. Però è la telepatia tra due persone che si stimano e hanno gli stessi progetti. Ma magari invece l'ha letta. Non credo. Io sono il discepolo e lui il professore. Ah, va bene, grazie, buona giornata, ovviamente in bocca al lupo a Gabriele Albertini. Grazie. Candidato in Regione Lombardia al Movimento Lombardia Civica. 24 mattino. Le 8:36 minuti, eccoci qua. Allora, sui giornali sono definiti, tra virgolette, come impresentabili, secondo la Stampa, secondo alcuni articoli di giornale, diversi deputati, senatori, uscenti, che hanno problemi a vario titolo con la giustizia e che potrebbero essere ricandidati nuovamente. Oggi il Partito Democratico riunisce i garanti, presieduti da Luigi Berlinguer, che dovranno decidere su alcuni nomi, per esempio su Vladimiro Crisafulli, che indagato e che al Messaggero oggi dice in un'intervista a Mario Aiello: io rapporti con la mafia zero, sono pulito, pulitissimo. Oppure si parla molto di Nicola Cosentino in campagna, per il quale la Camera aveva richiesto anche l'arresto, la Procura ha richiesto l'arresto e la Camera aveva respinto. Nicola Cosentino, intervistato oggi da Repubblica, dice: sono accusato da pentiti, camorristi, ergastolani, schifosi, sono innocente e lo proverò. È un tema che segue molto da qualche giorno il Fatto Quotidiano. Saluto il direttore Antonio Padellaro, buongiorno e benvenuto direttore. Buongiorno. Anche oggi voi in prima pagina titolate, insomma, che fai soprattutto sul Partito Democratico, li cacciate allora queste persone? Saluto anche, mi faccia salutare, l'onorevole Alfonso Papa, buongiorno, deputato uscente. Buongiorno. Lui che in carcere c'è stato veramente quanti giorni, onorevole Papa? 101 giorni a carcere di Poggioreale e quasi 2 mesi di arresti domiciliari. E anche lei è uno dei cosiddetti definiti impresentabili, perché ha ancora problemi con la giustizia in corso. Onorevole Papa, intanto le chiedo, secondo lei questo è un problema che osterebbe una sua candidatura? Lei pensa di essere candidabile? Guardi, io le dico con molta sincerità e franchezza, io rispetto a questo dibattito che è in corso, onestamente, mi sento un po' fuori da questo coro, mi spiego. Io ho dato la mia disponibilità per la ricandidatura. Le devo dire che dopo quello che ho passato, dopo quello che ho vissuto, non rappresenta questo esattamente il fine ultimo della mia vita, quello di ritornare in Parlamento. Io sono però impegnato in una battaglia per le carceri, che è una battaglia molto pannelliana, molto radicale, e per i diritti civili, in un momento nel quale tutto il mondo sta cominciando a mettere gli occhi sull'Italia per quella che è la situazione italiana. Onorevole, una battaglia sì, che si può fare anche senza stare in Parlamento, però. Certamente, infatti io ho sperimentato che la mia qualità di parlamentare mi ha aiutato molto nelle attività di visita alle carceri. Io presiedo il Comitato per la Prepotente Urgenza, per l'amnistia e per la riforma del carcere e della giustizia. Con me ci sono tante famiglie, migliaia di persone che lottano per questi diritti civili. Io continuerò la mia battaglia se avrò la possibilità all'interno del Parlamento. E se no fuori. Se non avrò questa possibilità fuori. Comunque lui ne fa una questione di principio, come dire: io vorrei entrare in Parlamento per portare avanti questa battaglia, perché il parlamentare ha la prerogativa di poter visitare le carceri. Le dirò di più, sì. Io non dico neanche vorrei rientrare in Parlamento, io ho dato la mia disponibilità, ovviamente l'ho data a chi? L'ho data al mio partito e l'ho data personalmente a Berlusconi, che ritengo tra i politici italiani quello oggi più sensibile rispetto ad altri su questo tema di diritti civili e della libertà. Devo anche dire che in questo momento purtroppo viviamo una situazione difficile per altre realtà, alludo per esempio ai radicali, a Pannella. Ricordiamo che c'è un uomo, Pannella, che sta usando il proprio corpo in condizioni estreme, togliendosi il cibo e l'acqua per denunciare queste situazioni. Io mi sento vicino a queste realtà, questa battaglia civile, senza entrare in questa polemica. Una battaglia pannelliana. Però su queste candidature c'è una polemica invece molto forte in atto. Vorrei al direttore, intanto direttore Antonio Padellaro, un commento se vuole alla posizione dell'onorevole Papa, che ne fa una questione di battaglia anche civile, pannelliana, che porta avanti. E invece il dibattito più ampio sulla questione delle candidature. Che succede se è tutto rispettato dal punto di vista della legge sulla candidabilità di una persona? Perché bisognerebbe entrare nelle scelte politiche dei partiti? Allora, intanto io trovo coerente la posizione dell'onorevole Papa, che sulla base di una sua dolorosa esperienza decide di impegnarsi su un tema come quello della infamia, in certi casi, in cui si trovano molti detenuti a causa dell'assenza di Stato, e quindi ben vengano posizioni e impegni come quelli dell'onorevole Papa. Adesso non voglio entrare nelle altre motivazioni, ma su questo non ho altro da dire. Mentre Io trovo che sulla coerenza di certi partiti c'è molto da discutere. Effettivamente nessuno qui sta a discutere se il fatto di candidare questo o quello sia contrario alle regole di questo o quel partito. Diciamo che c'è anche qui una coerenza rispetto a quello che si è detto in campagna elettorale, prima della campagna elettorale. Abbiamo dei partiti come il Partito Democratico che della trasparenza e della correttezza delle proprie scelte ha fatto una bandiera. Ecco, noi facciamo i giornalisti e ci permettiamo di discutere in questa trasparenza e questa correttezza, perché prendiamo il caso più eclatante, quello di Crisafulli, no? Questo personaggio del PD siciliano. Sì. Il quale non avrà avuto rapporti diretti con la mafia, ma ci sono rapporti invece dei carabinieri. Sì. Che noi abbiamo pubblicato, che voi avete pubblicato, che dovrebbero far riflettere, ecco, lui fu visto, ci sono anche le immagini, incontrare un boss mafioso, ma lui ha sempre detto non eravamo da soli, era un consesso pubblico. Sì, ma non è solo questo, è diciamo che tutta l'attività, chiamiamola così, politica, molto tra virgolette, di Crisafulli è da discutere. Allora, qui dobbiamo metterci d'accordo. Se al Partito Democratico va bene candidare i Crisafulli, abbiamo il caso di Papania, che ha avuto anche lui in Sicilia problemi, abbiamo molti casi, benissimo, li candidi il Partito Democratico, nessuno glielo può impedire, però non vengano poi a dirci che i loro candidati hanno, no? È una questione di coerenza, prova, lei dice. La prova del bianco più bianco, perché non è così. Non parliamo poi del partito del Popolo delle Libertà, lì c'è veramente da ridere. Però so, Berlusconi che dice Dell'Utri è una persona degnissima, non ha avuto ce l'ha avuta in realtà una condanna definitiva per motivi non dell'associazione esterna alla mafia. È una persona degnissima, un bibliofilo di primo livello e quindi sì, bibliofilo, sì. Vuole sapere qual è il problema? Sì. Il problema è che in questo momento tutti i partiti, tutti, hanno bisogno di tutti i voti possibili e immaginabili. Perché? Perché adesso, come si dice, il gioco si fa duro, no? Allora, Cosentino quanti voti porta al Popolo delle Libertà? Credo che ne porti parecchi, sì. Perché Cosentino è un personaggio, come si dice, è molto popolare, radicato nel territorio. Il territorio è quello dove dominano alcune realtà criminali. Beh, però sembra che se dice così sembra che i camorristi votano Cosentino, cioè Cosentino, cioè, non si potrebbe fare politica nei territori in cui c'è la criminalità organizzata. Io ho detto che lui è radicato in quel territorio. Poi ci sono, scusi, lei ricorderà, come ricorderanno gli ascoltatori, che Cosentino ha scampato l'arresto perché il Parlamento ha votato, come quasi sempre, nel 99% dei casi, perché gli fosse evitato l'arresto. Ci sono c'è parecchio materiale che riguarda la posizione di Cosentino. Poi magari risulterà innocente in un processo, no? Però diciamo che la sua posizione è una posizione, si può dire, discutibile. No, questo sì, ma infatti è molto discussa. Lui stesso fa interviste e lui stesso dice, insomma, l'accusa è associazione esterna alla Camorra, associazione mafiosa, e lui stesso dice, certo, la sua difesa, io sono innocente. Poi alla domanda di Repubblica, ma quindi per questo verrà assolto? Ah, beh, questo è nelle mani del Signore, risponde Cosentino. Allora, eccoci qua con il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e Alfonso Papa. Senta, Papa, le chiedo questo. Secondo lei, Cosentino, che lei tra l'altro è un ex magistrato, Cosentino che è stato che è sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, ha chiesto il rito immediato, è opportuno che venga candidato a un partito? Cioè, questo, se vuole svincolarsi anche dal nome in sé, è opportuno che una figura così venga candidata da un partito, o è meglio che chiarifichi prima la sua posizione processuale? Io le dico con molta franchezza, visto che lei mi chiama in causa come magistrato, sebbene impresentabile. Allora, sì. Noi, guardi, siamo un paese strano, abbiamo un sistema che credo debba oggi essere molto attento ai valori del garantismo. Mi spiego, noi siamo tra i pochi paesi al mondo democratici che hanno istituti come l'obbligatorietà dell'azione penale, un pubblico ministero assolutamente indipendente e irresponsabile, nel senso che non esiste di fatto una disciplina della responsabilità civile del magistrato in caso di errore. Sì. Abbiamo dei termini di carcerazione preventiva che non hanno equivalenti nel mondo. Abbiamo una serie di istituti che danno un fortissimo potere alla magistratura, soprattutto nella fase delle indagini. Abbiamo poi una Costituzione estremamente garantista che prevede un principio di non colpevolezza. Se e questo, per dire, sistema, questo per dire se che... Se il sistema è questo, io credo che un paese che mantiene istituti di questo genere debba necessariamente essere un paese che si tiene anche ancorato a principi di garantismo. Quindi Cosentino è presentabile. D'altra parte, non è un caso che proprio in questi giorni vi sia un dibattito portato avanti da frange particolarmente attente dalla magistratura. Voglio dire, l'ultimo libro di Gherardo Colombo, che contiene una profonda riflessione sulla barbarie della carcerazione, la esternazione di oggi sui giornali, corretta, del procuratore di Milano, fanno capire come vi siano a tanti livelli persone sensibili. Sì, certo, questo è il tema delle carceri. No, però mi dica però con un sì o no. Cioè, io traduco quello che lei ha detto sul fatto che Cosentino è presentabile. Cioè, in un paese garantista che fa del garantismo uno dei principi ai massimi livelli, Cosentino non si deve dire, se una persona non è colpevole, non si può presentare in Parlamento. Sì, questo ci può dire. Sì. Per un motivo, perché il garantismo non può essere una questione di opportunità, ma deve essere una consapevolezza civica. Se allora noi siamo garantisti e crediamo nei valori della Costituzione, allora deve noi essere dobbiamo ritenere un Cosentino presentabile. Ha sentito, Padellaro, che ne pensa su questo? Dal punto di vista strettamente del garantismo, voi che siete accusati spesso di essere invece dei giustizialisti al Fatto Quotidiano, che risponde? Ma guardi, noi siamo molto garantisti, e molto più garantisti di quanto si possa pensare, nei confronti dei cosiddetti poveri cristi. Penso che l'onorevole Papa ne abbia incontrati quando ha fatto la sua triste esperienza in carcere. Cioè, noi abbiamo due pesi e due misure in questo paese. Abbiamo una serie di persone che non possono pagarsi gli avvocati costosi, e che vengono abbandonati effettivamente a se stessi in queste galere, per i quali il garantismo non esiste, perché, mi scusi l'espressione volgare, ma chi se ne frega se stanno lì e possono marcire. Poi ci sono i Cosentino, e mi permetta l'onorevole Papa, i Papa, i deputati, i parlamentari, i senatori, cioè quelle persone che hanno una serie di garanzie che sono... diciamolo anche, l'effetto di del loro appartenere a una casta privilegiata. Sono quelli più uguali degli altri, ecco. Ma molto più uguali degli altri, perché io vorrei vedere se vorrei mettere a paragone il detenuto X, che magari è in galera per ragioni di piccolo spaccio, e il parlamentare che arriva attorniato da avvocati e partiti politici che lo sostengono e lo garantiscono. Allora io trovo, mi scusi, insopportabile per un cittadino comune che la parola garantismo venga usata per chi ha mille privilegi E non per gli altri. Fatemi sentire due ascoltatori. Severino dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Brevi ma efficaci. Grazie, Severino. Sì, allora io credo che sia sicuramente un tema di opportunità, innanzitutto, perché probabilmente se la mettessimo su un piano meramente giudiziario non riusciremmo mai a trovare una soluzione, un punto dal quale è giusto consentire o non consentire la candidabilità. Ma credo che soprattutto sia molto legato anche al concetto che abbiamo della politica. Cioè, uno Stato come il nostro, la nostra Costituzione, deve garantire a ogni cittadino di realizzarsi attraverso la propria attività professionale. La politica non dovrebbe, è condizionale, è d'obbligo, essere un mestiere. Quindi non consentire a qualcuno di candidarsi non dovrebbe essere un insulto, anche solo se ha delle noie con la giustizia, perché oggi chi ha noie con la giustizia fa più fatica magari a trovare un posto da bidello in una scuola statale invece che in politica candidati. No. Grazie Severino. Credo che è stato chiaro. Emanuele da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo soltanto dire, sono un piccolo imprenditore con 20 dipendenti lavoro spesso con la pubblica amministrazione, sono anche un avvocato. Qui il problema non è di essere o meno garantista, perché il nostro è sicuramente un sistema garantista, il problema è un altro, anzi i problemi sono due. In primo luogo c'è un problema di, per quanto mi riguarda, un problema di contrattare con la pubblica amministrazione, dove la politica praticamente è difficile distinguere la politica dall'economia, perché molto spesso vi sono imprese che direttamente o indirettamente sono legate alla politica. E in secondo luogo, per quanto riguarda diciamo l'aspetto, sì, l'argomento che viene trattato oggi in particolare, cioè io mi rivolgo all'onorevole Papa. Io ero un ex elettore del PDL che sicuramente non, sì, voterò più, per un semplice motivo, perché certamente non può essere l'onorevole Papa, a maggior ragione l'onorevole Berlusconi, a decidere, tenuto conto del fatto che è vero che non c'è stata una condanna definitiva, ma comunque c'è stata una condanna in primo grado, non può essere certamente lui ad affrontare, sì, il problema giustizia. Non le piace questa cosa. Io non riesco a far replicare l'onorevole Papa, ma il tema lo affronteremo nei prossimi giorni, perché le candidature stanno arrivando al punto finale. Vi ringrazio Antonio Padellaro, Alfonso Papa, per essere stati con noi. L'appuntamento è rinnovato domani mattina, come sempre, alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.